alone di simpatie e di amicizie ero strette e cordiali che subito fanno richiami intorno a lei, e sono lieto anche da questo lato di corrispondere da parte dell'Istituto di Scienze e Religioni. Ho sentito di Suor Cecilia cose molto belle proprio dal professor Prodi, che mi ha raccontato di averla vista ancora ai primi inizi dell'Istituto di Scienze Religiose in Bologna, vero, nell'alone di amicizia intorno al professor Dossetti, e questa è già una nota che senza dubbio, insomma, ci riscalda il cuore tutti quanti. È laureata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dopodiché il suo soggiorno in India l'ha portata a occuparsi in modo diuturno e sistematico della spiritualità, del pensiero indiano, ed è quello che è maturato nell'opera che qui viene presentata. Io non posso che ringraziare Suor Cecilia di questa disponibilità e anche di averci un po' stimolati a tematizzare questo argomento. Il professor Monterin, della disponibilità di questa serata, parlerà per prima lui, poi l'autrice del libro, e penso che se i presenti hanno delle domande da porre in tutta fraternità come qui ci troviamo, ecco, dopo avremo un po' di tempo anche per il colloquio. Grazie e buon successo, professor Terin, a lei. Buonasera, grazie a tutti. Dunque, io sono lieto di presentare questo volume di Suor Cecilia Impera, proprio perché ne vale la pena. È un volume di cui credo forse avevamo bisogno in Italia, ne mancava anche, se ne sentiva il bisogno. Non è un caso che in Italia, soprattutto da parte di italiani, mancano studi sull'induismo. Chi conosce un po' il mondo dell'induismo, questa grande religione, sa come in Italia sono pochissimi quelli che scrivono. Abbiamo due o tre indologi a Torino. Stefano Piano è quello, uno di questi due, quello che ha fatto l'introduzione a questo volume, Stefano Piano. Poi ci sarebbe Piantenni, qua che fa studi più specifici e più a volte dettagliati. Oscar Botto, che ormai però ha raggiunto una età veneranda. Abbiamo qualche altro studioso a Roma, non so che nominarli tutti. Abbiamo forse la Maria Mezzaria a Bologna, e poi davvero c'è la Caterina Conio, che ancora che è stata nominata e che ho visto il suo nome, il cui nome compare qui. Caterina Conno, che insegna a Pisa, e poi non abbiamo altro. Dunque siamo poveri da questo punto di vista, siamo poveri. Il libro della Cecilia Impera, devo dire che è un bel libro, proprio perché si presenta anche in una forma di tipo manuale. Non è soltanto un approfondimento di carattere teorico, e perciò non è un libro che possa andare in mano soltanto a coloro che sono progrediti nello studio dell'induismo, perché è capace anche di dare una somma abbastanza omogenea e anche, direi, tipo manualistico quasi, e dunque per questo è ancora più apprezzabile. Pur avendo poi degli approfondimenti circa il significato della vita e della morte, come suona recita il titolo, che sono davvero interessanti. Ecco, se noi andiamo a vedere, e vorrei ritornare su questo tema un po' generico, in Italia, che cosa abbiamo in questo campo così vasto dell'induismo, del buddismo, se andate nelle librerie, cosa trovate? Finite con trovare soprattutto libri tradotti dall'inglese, dal tedesco, eccetera, e poi libri di carattere esoterico, Questo non è un libro assolutamente di carattere esoterico, non è non fa parte della collana della Ubaldini, avvolta nella collana Ubaldini, Astrolabio e tutte quelle altre collane, si scrivono volumi e volumi e volumi, con una grande confusione, dove si dice di tutto e su tutto, ma in maniera molto, molto raffazzonata e quasi a caso. Qui invece c'è un ordine, c'è un volume che ha una sua linearità propositiva, dove davvero si può capire la fisionomia dell'induismo a partire dai testi più antichi, seguendo una bella traiettoria storica, naturalmente accentuando in maniera particolare le Upanishad e la Bhagavad Gita, e si dà tramite soprattutto questo insieme di testi sacri una panoramica molto bella di tutta la visione indù, e questo non è una cosa. Per quanto riguarda il metodo, volevo dire anche una cosa. Mi sembra che l'autrice ha anche una certa propensione per l'immedesimazione, sa immedesimarsi con l'oggetto del suo studio, e questo io lo ritengo sempre un grande pregio, perché penso che per conoscere davvero una realtà bisogna avvicinarla anche da dentro, quasi partecipandovi, quasi facendo la propria. Mi sembra in molti passaggi che l'autrice sente e vive la vita dell'indù quasi come la sua stessa vita religiosa. Questo è un ulteriore punto di vantaggio, direi. Un altro tema che appare, per esempio, e qui adesso vado più nello specifico, a pagina 22, e che è sviluppato già all'inizio, nelle prime pagine, in maniera molto interessante, pagina 22, è un tema per cui, secondo la visione orientale, ogni dottrina deve portare anche alla salvezza, deve essere anche una dottrina di salvezza. E questo è importante, lo dice con parole molto chiare, direi. E perché questo? Questo direi è proprio in contrapposizione con quello che invece succede nella nostra visione occidentale, dove spesso abbiamo delle grandi teorie, grandi filosofie, ma che non hanno un risvolto soteriologico, diremmo noi, un risvolto salvifico. Cioè, per gli orientali è impossibile pensare a una teoria, a una dottrina, che non abbia una funzione salvifica. E questo è davvero importante. Non sono due cose scindibili, non c'è la filosofia come pura speculazione, e basta. Una speculazione deve essere sempre in ordine a moksha, in ordine alla liberazione, alla salvezza. Se non è in grado di proporre una via di salvezza, non è considerata neppure una dottrina. E questo è messo bene in evidenza in queste prime pagine, e dunque sono temi che sono davvero molto cari a tutti gli studiosi di questa materia. Un'altra dimensione metodologica che mi sembra interessante: voi sapete che nel mondo indù ci sono sei sistemi filosofici, cosiddetti dharsana. L'autrice non si è sentita di trattarli quasi a parte, ciascun sistema filosofico a sé, e di fatto sarebbe stato un discorso un po' difficile, e per altri aspetti anche noioso. E dunque ha cercato di inserire in maniera molto intelligente Per esempio il sistema Samkhya, che è uno dei sistemi più importanti, il sistema filosofico Samkhya ha inserito in una parte soprattutto che riguarda la vita, nella Bhagavad Gita, nella seconda parte del volume, mentre il sistema di Shankara, l'Advaita Vedanta, cioè il sistema non dualista, l'autrice scrive a volte sistema monista, parla del sistema monista, forse sarebbe meglio dire non dualista, come dice il testo, come suona, recita il sanscrito, dice Advaita, Vishista Advaita, eccetera, ma sarebbe preferibile forse dire non dualista, non duale. Ecco, questo sistema di Shankara, che a mio avviso è uno dei sistemi più importanti, l'autrice lo inserisce in maniera organica quando tratta dell'Atman Brahman, riesce a, sia nel capitolo dedicato all'Upanishad dell'Atman Brahman, e sia quando parla della via della salvezza in Jnana Marga, anche lì introduce elementi del sistema Advaita di Shankara. Dunque anche quello è un bel equilibrio, una bella capacità di giocare anche di intelligenza, sapendo misurare e calibrare bene le parti in gioco, di un mondo che è vastissimo e che dunque poteva sfuggire da qualsiasi parte. Perché voi dovete pensare che il mondo indù è enorme. Addirittura si dice che l'induismo non è una religione, ma è una famiglia di religioni, 10-20 religioni. Dunque riuscire a creare un equilibrio tra le parti, riuscire a mettere in risalto alcuni elementi focali, credo che sia stato un compito non indifferente di cui siamo obbligati a Cecilia Nera. Dal punto di vista, questo direi metodologico, vorrei però vedere anche qualche elemento contenutistico. Direi che il libro dice le cose essenziali dell'induismo. Essenziali. Dicevo prima che quando noi leggiamo oggi libri sull'induismo troviamo di tutto. Un bailamme di cose, quindi messe da tutte le parti, senza ordine, con grande disordine, un grande caos di solito. Qui c'è una grande strutturazione e c'è la precisa intenzione di dire le cose essenziali. E dunque servire proprio anche questo volume può servire come un manuale delle cose. Non è un caso che parte dal tema, il titolo stesso lo dice poi, il significato della vita e della morte, l'induismo, parte da quella bella vicenda che è raccontata nella Katha Upanishad e che ritorna almeno due o tre volte nel libro, come accenno. Per esempio ritorna, cioè, prima accennata alla pagina 22, cioè agli inizi, a Nachiketas, la vicenda di Nachiketas, tre volte, appunto. Nachiketas è questo giovane adolescente che si confronta con la morte nella Katha Upanishad e si presenta al dio Yama, al dio della morte, e vuol sapere qual è il senso della vita e della morte, e lo vuole sapere direttamente dal dio Yama. Ma allora il dio gli dice ma guarda, ritorna in vita, ritorna su, lascia questo, lascia l'alde, ritorna su, ti do tutto quello che vuoi, ti do tutto quello che desideri avere, ti renderò felice, ti darò tutti i beni di questa terra, però non interrogarmi sulla morte. E il giovane invece che insiste, dice non mi interessa niente, non sono interessato ai beni di questo mondo, non sono interessato a niente. Voglio soltanto sapere che senso ha la morte. Se c'è o non c'è nel di là, che cosa c'è? E allora il Dio di Emma è costretto a parlargli dell'Atman, mi parlerà dell'Atman, mi introdurrà alla grande visione dell'Atman e lo consiglierà di fare yoga intanto per cercare lentamente di allenarsi per capire davvero il senso profondo dell'Atman, questo spirito assoluto che riempie di sé come chiede tutto l'universo, e scoprire il quale significa scoprire la propria essenza, la propria immortalità. Allora, partendo da questo testo, che è un testo direi emblematico per l'autrice, è un testo molto bello, viene sgranando tutti i temi del destino, della vita, della morte, e si sofferma un momento, e qui questo mi interessa in modo particolare, sul karma samsara, capitolo secondo di Mari, l'ha introdotto subito. La situazione dell'uomo nel samsara. Spendo due parole per dire che cos'è il karma samsara. E mi sembra addirittura che l'autrice, voglio dire una parola che forse è troppo carica, però credo che sia così all'interno di questo volume, è quasi ossessionata da questa concezione che hanno gli Hindu del karma samsara, perché questo tema ritorna, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte ritorna, e contrattazioni sempre un po' approfondite e anche sempre anche con qualche osservazione critica. Anzitutto, che cosa dice questo tema, che è davvero fondamentale per tutto il mondo hindu? Il karma samsara è il karma è il peso che viene attribuito alle nostre azioni, cioè le nostre azioni hanno un carico, è il frutto delle nostre azioni, le nostre azioni in qualche maniera pesano, hanno un po' del karma, cioè comportano qualche cosa che, essendo un legame a questa vita, dovremmo scontare in una maniera o nell'altra il karma. Dunque, quando voi pensate al karma, dovete pensare come qualcosa che ci pesa addosso, e ci pesa addosso perché noi, vivendo, compiamo delle azioni e agendo in qualche maniera ci attacchiamo alla vita. Attaccarsi alla vita vuol dire in qualche maniera appesantirsi, rendere pesante la nostra vita. E naturalmente questo comporta che noi saremo costretti a rinascere. Questo è il grosso problema. Dunque, qui c'è un insieme di nodi, di intrecci, di problematiche che ha ben visto l'autrice, e non a caso ritorna su questo tema del karma, proprio per dire che il karma è il tentativo per risolvere il problema, per esempio, dell'ineguaglianza tra le persone. Perché una persona magari nasce ricca e una povera, in una casta e in un'altra casta? Perché, si dice, nelle vite precedenti ha accumulato più karma, si dice, e dunque deve scontare, si è attaccata di più alla vita e dunque è inevitabile. Dunque c'è una specie di proporzione tra quello che noi siamo e quello che siamo stati. C'è un equilibrio nella visione indù. Non c'è un, come dire, un Dio che perdona, se no imbarazzarsi naturalmente nella vita, eccetera. Ma per sé non c'è un Dio che perdona e dice, ecco, sono liberato da tutto. Ma c'è sempre questa pesantezza caldica, per cui uno è quello che è stato. E che lo mette bene in evidenza, ma allora l'autrice si domanda, ma e dove va, per esempio, allora la libertà dell'uomo? Se tutto è così determinato, se tutto è così fissista, se c'è questa dipendenza causale, e sono tutti problemi connessi con un'altra visione della vita che è molto radicata nel mondo indù e che noi non siamo capaci di sentire come nostra. Capite? Qui direi che c'è proprio un problema, una specie di distacco, di cesura tra il mondo nostro, il mondo occidentale, cristiano, se volete, e il mondo indù. Anche se, come voi sapete oggi, ci sono molti cristiani e anche cattolici che dicono di credere nella reincarnazione, però in maniera molto più blanda, molto più facilona. Cioè, ritengono che sia una cosa bella poter rinascere. Secondo le statistiche ufficiali, in Europa sarebbero circa il 30%, esatto, dal 25 al 30%, i cristiani cattolici che credono nella reincarnazione, secondo questa visione karmica, dove però la concezione karmica non ha più il senso che ha nell'induismo, perché nell'induismo la reincarnazione, il samsara, andare in circolo, è qualcosa di negativo, è un dramma, è proprio una condanna, un castigo, il peggiore castigo che si possa avere. È una condanna che tutti vorrebbero evitare. Mentre noi, da uomini occidentali, facciamo una sintesi, un po' di tutto, diciamo, ah, che bello poter rinascere, fare un'altra vita, e dunque abbiamo sfasato un po' la concezione del samsara come è nella sua visione originaria del buddismo, così come è poi anche nel buddismo. Ecco, qui si potrebbe appunto vedere tutte le pagine, sono innumerevoli, dicevo, forse si potrebbe andare a vedere le ultime dove fa la critica un po' questa visione. Guardo soltanto dove parla per l'ultima volta, pagina 316-321 del Karma Samsara, di riferimento alla Gita, alla Bhagavad Gita, perché sia per le Upanishad e sia per la Bhagavad Gita, giustamente, l'autrice, dopo aver presentato i testi, aver commentato i testi con testi della traduzione indù, ha un capitoletto finale dove parla di note critiche alla Bhagavad Gita e note critiche alle Upanishad, dove vorrebbe, come dire, mettersi in un dialogo, soprattutto cercare di dialogare per quanto è possibile. Ecco, qui in queste note critiche alla dottrina della vita, pagina soprattutto 314-315, dice appunto che, per esempio in alto, pagina 315, ma la vita umana poggia quindi su un imponderabile, su un'ipotesi non provata né convincente, è affidata a un meccanismo discutibile che rende difficile, se non proprio impossibile, il dispiegarsi della libertà umana. proprio commentando il tema del karma samsara. E naturalmente questo è un tema che andrebbe approfondito a livello dialogico con questo mondo, proprio perché siamo tutti in gioco, è un altro schema religioso, un altro schema. Anche se invece forse è meno quello che c'è a metà pagina, quello poteva essere messo come in parentesi forse, se mi permette l'autrice di farlo notare. Scrive: la tradizione indù fonda la credibilità sull'autorità dei testi sacri, ritenuti divinamente ispirati. Anche questa affermazione non provata è tuttavia accolta da fedeli indù. E questo direi che è un po' di troppo. Perché? Perché mai un testo è provato, un testo sacro? E questo è un vero problema. Non è provata, e come si fa a provare? Il provare che un testo sia sacro o no è ancora un criterio religioso interno. E dunque questa affermazione qui è l'unica, credo, in tutto il libro, lascia un po' perplessi, perché la stessa cosa, non per altro, ma perché la stessa cosa non si potrebbe dire anche dei Vangeli, anche della Bibbia, capite? Non è che ci sia. Invece quello che riguarda il karma samsara, con tutte queste problematiche, si vede che l'autrice sa capire i problemi che queste suscitano in rapporto alla persona, all'individualità, alla libertà umana, e questo non va a suo onore, direi, perché davvero sono problemi che dovrebbero essere ripensati nella loro interezza. Vorrei ancora dire qualche cosa per la seconda parte, dove parla del Upanishad. Anche questo è molto bello. Qui l'autrice parla dei problemi dell'Upanishad. E non so, forse prima è stato scritto in inglese il testo, la tesi, forse era in inglese. Problems in inglese probabilmente ha un altro senso, perché in realtà, a mio avviso, sarebbe stato meglio mettere temi del Upanishad piuttosto che problemi. No, perché problemi sembra già un momento dove ci si interroga, ma quasi ci si interroga anche in senso, direi, negativo. Mentre da tutta l'esposizione appare che quello che espone l'autrice in maniera molto bella in questo caso non sono problemi sull'Upanishad, ma sono proprio i temi fondamentali dell'Upanishad. I temi, per esempio, quali l'Atman, che cos'è l'Atman, Brahman, l'identità tra l'Atman e Brahman, la concezione del Sat-Chit-Ananda, Brahman come essere, spirito e felicità, per un beatitudine, Sat-Chit-Ananda. La inconoscibilità del Brahman, sono termini bellissimi, laddove si dice che il Brahman non è né così, né ti, eccetera, tutti riportati in maniera perfetta dall'autrice. E poi anche con gli apologhi che ci sono, per esempio un apologo di Shveta Ketun, il ragazzo che viene invitato dal padre, questo racconto tanto così per, proprio per dimostrare come l'Atman riempie di sé l'universo intero e la realtà si unisce in un'unica grande visione, come dire. C'è questo piccolo racconto. Shveta Ketun è una giovane ragazza che dice: io non capisco, il padre, cosa tu mi vuoi dire quando parli dell'atomo. Allora il padre dice: senti, prendi un po' di sale e gettalo qui su questo stagno. E poi verremo domani mattina. Il ragazzo obbedisce e getta il sale in questo piccolo stagno. Il mattino dopo il padre dice: ecco, adesso assaggia l'acqua in superficie. Il ragazzo fa, dice: è salato. Poi il padre dice: assaggia l'acqua più in profondità. Il ragazzo assaggia l'acqua più in profondità e dice: è salata anche questa. Assaggia l'acqua che è più profonda, dice. Anche il mio è notato, è salata. Ecco, dice il padre, come l'acqua perde di sé ogni cosa, come il sale, scusate, perde di sé tutta l'acqua, così l'atman perde tutta la realtà. Capire il tat tvam asi, uno dei malati, tu sei ciò, significa capire tutto, vuol dire essere già salvati, cioè riuscire a immedesimarsi con il tutto. Secondo la visione mentale, il tu è già acquistare la salvezza suprema, il momento supremo di liberazione. E questo è messo bene in evidenza nel testo. Notate che questa visione è, direi, quella fondamentale, a mio avviso, delle Upanishad, naturalmente soprattutto delle Upanishad più antiche, cioè della Brihadaranya Upanishad, della Chandogya Upanishad, perché giustamente l'autrice fa vedere come poi dopo, attraverso alcune Upanishad più, un po' più recenti, come la Shveta Shvatara Upanishad, si va verso un teismo nuovo. Però quello più antico, la visione più antica, è una visione advaita, quello che dicevo prima, non dualista, dove capire l'unità del tutto significa sconfiggere il proprio io, che è la cosa più importante. Non essere più, come dire, una costruzione, non avere più un io che si costruisce, vuol dire vivere nell'assoluto. Noi dovremmo, come dire, sconfessare noi stessi in quanto io per capire il sé. Questa è un'idea fondamentale dell'induismo. Voi direte: ma allora dove va la persona, individualità, eccetera? È un altro, ripeto, è un altro sistema, è un'altra visione. Ma probabilmente anche nella visione cristiana c'è qualcosa di questo. A livello soprattutto, direi, di ascesi. Pensate anche Gesù quando dice: lascia tutto quello che hai, spogliati completamente, eccetera. C'è una specie di spogliazione, di liberazione di sé, del proprio io, anche nel cristianesimo. Sarebbe stato forse un ulteriore argomento, un'ulteriore possibilità di approfondimento. In ogni caso, questa parte dell'Upanishad è molto bella proprio perché porta, direi, i testi più importanti circa l'Atman, Brahman, di queste conoscenze che noi dobbiamo avere della visione indù. Poi mi piacciono in modo particolare anche i quattro stadi della vita che sono importanti: Brahmachari, Garkasta, Vanaprastha, il Sannyasi. Cioè, tramite la legge di Manu, soprattutto, Manushmarti, non ha una visione di quello che deve essere la sua vita. Essere dapprima uno studioso dei Veda, Brahmachari, essere, come dire, un neofita. Poi deve formarsi una famiglia, per casta, uno stato di famiglia, poi via via per passare degli anni deve cercare di liberarsi da tutto quello che ostacola la sua formazione spirituale, fino al punto che si dice, giustamente lo fa rilevare l'autrice, quando nasce il primo nipotino, no? Una persona dovrebbe essere disposta a lasciare tutto e andare a vivere nella foresta, e capire, incominciare a capire che i valori spirituali sono quelli che devono essere al centro della nostra vita. E alla fine il sannyasi è vero, colui che ha rinunciato a tutto, sannyasi, colui che fa una vita da santo, da perfetto, che mangia una volta solo al giorno, che vive così, senza niente, una tunica vasta, e che è considerato un santo da tutte le persone. Anche questo è molto bello, nella descrizione che ne fa l'autrice. Poi, altre specie di digressioni tematiche, la pagina 179, per esempio, sono pure molto belle. Ho quasi finito. Pagina 179, eccetera, e c'è la digressione sul discepolato, 10 pagine, a mio avviso molto belle quelle pagine, perché non abbiamo qualcosa di simile nel nostro mondo cristiano, cioè l'importanza che ha il guru nella formazione del discepolo, e il discepolo cioè il rapporto che c'è tra il discepolo e il guru. Uno non può mettersi a studiare le scritture e dice io imparo da solo. Non serve, la teoria non serve. Bisogna fare esperienza. E per fare esperienza occorre sempre il maestro. Sono importantissime quelle pagine, perché secondo me si fanno capire davvero il senso del discepolato e l'importanza del maestro, che noi non abbiamo assolutamente nella nostra concezione. Il maestro, che giustamente dice in un passo l'autrice, diventa quasi, è visto quasi come un dio, il guru. C'è tanta la venerazione verso il maestro, naturalmente il maestro è più importante del padre, è più importante, è proprio la figura verso cui si fa riferimento in maniera assoluta. E tramite lui si fa esperienza di tutto. Tramite il guru il maestro mette anche in difficoltà il discepolo, addirittura per anni, per 10 anni, eccetera. Ma alla fine si capirà l'importanza di quelle esperienze. E questo qualcosa direi che è nuovo. Poi una concezione anche, qualche bella pagina più indietro sulla sillaba Om, sul mantra Om, sapete che è un mantra sacro, quello più importante, diremmo. Perché? Perché con questa espressione si riassume tutto il senso del mondo, della vita, la realtà, Om. C'è una specie di risonanza, potremmo dire, noi tra virgolette, magica, e qui nota in maniera molto bella, che questa è davvero una delle espressioni di Hindu più amata, di mantra più amata. E poi erano ancora delle pagine molto belle su Jiva Mukta, su colui che è liberato. Ecco, che ha raggiunto la libertà già in questa vita, e noi diremo che è il santo, colui che ormai ha raggiunto la libertà, e dunque è colui che non è più legato al suo io, che ha, come dire, negato il suo io totalmente, che non ha più desideri. Vedete, questo è un problema fondamentale, che noi siamo sempre un fascio di desideri, e finché siamo un fascio di desideri siamo legati a qualche cosa. Finché siamo legati a qualche cosa vuol dire che dipendiamo da qualche altra cosa. Dipendere dagli altri significa non essere più padroni di sé, non essere più liberi, non poter raggiungere la pienezza della libertà. E questo è il problema per noi ancora. Perché per noi liberarci dai nostri desideri significa liberarci da noi stessi, cioè non essere, non esistere neppure più. Se volete arrivare al punto di vivere operando tutto e facendo tutto, ma senza desideri, senza attaccamenti, senza questo io che ci roba sempre dentro e che è quello che è del grande male della nostra esistenza, questo io, questa formazione del io. Le note critiche le ho già messe un po' in risalto, quelle della Gita e quella anche della Upanishad, sono interessanti, è un tentativo di dialogo, ripeto, di confronto con il mondo indù. Ecco, mi sembra che così, anche l'ultima parte che tratteggia tutta la visione della Bhagavad Gita è molto bella ed è un testo che appunto andrebbe in mano anche agli studenti, perché non hanno niente, non se la sentono tante volte di leggere direttamente la Bhagavad Gita. Qui avrebbero un bel riassunto fatto bene nei punti anche più essenziali della Bhagavad Gita, e dunque avrebbero ancora tra le mani un testo, direi, ottimo da questo punto di vista. Poi, naturalmente, parlando della Bhagavad Gita, l'autrice presenta le tre grandi vie di salvezza, sono quelle classiche, un po' già, cioè il Jnana Marga, la via della conoscenza, il Karma Marga, cioè la via delle azioni, anche tramite le azioni si può raggiungere la salvezza, naturalmente una visione che non sto qui adesso a esporre, e poi il Bhakti Marga, che è la nuova via in fondo inaugurata con la vita, la via della devozione e dell'amore verso il Dio, un momento in cui ci si avvicina maggiormente forse al cristianesimo, il Bhakti Marga, la via della devozione e dell'amore. E anche qui l'autrice si dilunga in maniera, direi, esaustiva e appropriata su queste tre dimensioni e prospettive proprie della vita, della Bhagavad Gita. Una piccola nota critica che compare in questa seconda parte, compare almeno due o tre volte, è questa: quando l'autrice presenta lo yoga, lì ogni tanto, naturalmente io non so giudicare, può darsi che sia giusto, dice: ma qui forse sei un tentativo dell'uomo di diventare Dio, come Dio, tramite lo yoga soprattutto, capite? E non è che non sia così, per certi. Per certi aspetti c'è questa tendenza. Naturalmente bisogna sempre valutare nel suo contesto, nel suo ambiente, nella sua totalità, perché noi non possiamo estrapolare, non so, un piccolo testo, una frase e riportarla all'interno del nostro mondo cristiano. Ogni realtà va vissuta e va vista nel suo ambito, nel suo interesse. Ecco, io concludo dicendo che il libro mi è piaciuto molto, soprattutto perché è un libro, ripeto, che potrebbe essere usato come manuale, pur avendo questi approfondimenti riguardanti il significato della vita e della morte nel mondo indù. E dunque è un libro che io consiglierei a tutti per una lettura, anche per un arricchimento personale, perché uno tramite il mondo indo capisce meglio anche la sua propria religione. Io credo che una delle cose migliori che noi possiamo fare, soprattutto in questo periodo, in questo storico di ibridazione di culture, di religioni, dove ormai c'è questo scambio continuo di mondi religiosi, è cercare di approfondire la propria religione tramite questi tessuti religiosi che vengono da altri mondi religiosi e che non devono essere visti né con ostilità né con un certo distacco, ma invece come fa l'autrice, con un grande senso di partecipazione e con un tentativo supremo di capirne il significato continuo. Grazie. Grazie professor Terin, lei ci ha fatto un discorso molto impegnativo e insieme anche molto limpido, che io ho potuto assai nel contesto del lavoro intellettuale del nostro istituto fino a venire a certe indicazioni assai pratiche, come quello che insomma, possiamo anche considerare di avere in mano un testo, tra l'altro, no? Ma insieme contemporaneamente agli ospiti straordinari di questa sera, no? Comunicare anche a io degli interessi e del discorso che nell'istituto cerchiamo di sviluppare proprio grazie alla presenza attiva di collaboratori e di docenti di questo rango. Ecco, e insieme, quello che insieme ci preoccupa anche così, dalle notizie del giorno, però l'addestramento a discernere un po' in questo mondo, a non navigare felici in questo mare indistinto, ma insomma ad aiutarci tutti un po' a trovare la strada. Ecco, ci sono delle cose molto interessanti in questo mondo, ma è facile anche perdersi se non si è aiutati, ho l'impressione.